pianeta in scatola, ascesa e potere delle catene di supermercati. È nel 1930 che in un ex garage abbandonato nel Queens, a New York, nasce il primo supermercato della storia. Con una superficie di 550 metri quadrati, il King Cullen Supermarket offre per la prima volta ai clienti la possibilità di fornirsi direttamente da scaffali su cui sono collocati 1000 prodotti diversi. Una vera rivoluzione, anche se, come spiegherà il suo fondatore Michael Cullen, il vero punto di forza del nascente supermercato è nell'introduzione di un sistema di vendita che garantisce grandi volumi di affari e poca manodopera, in altre parole, grandi profitti. Vera e propria mecca del consumo, nei successivi 80 anni il supermercato si sarebbe affermato come uno dei luoghi cardine per la vendita di prodotti, a cominciare dai generi alimentari. È qui che negli Stati Uniti, ma anche in Europa e negli altri paesi industrializzati, viene venduta ogni giorno la maggiore quantità in assoluto di beni destinati al consumo alimentare. Un fenomeno che soprattutto negli ultimi 10 anni ha portato ad una spaventosa concentrazione di potere nelle mani di un numero ridotto di grandi aziende. Il supermercato non è oggi che l'ultimo anello di una catena che ha esteso il suo controllo dai terreni agricoli agli scaffali, la cosiddetta grande distribuzione organizzata. Sistema che, come spiega Roberto Sensi dell'organizzazione non governativa MAIS, è in continua espansione. Allora, guarda, faccio un esempio. Il più grande attore, diciamo, di distribuzione a livello mondiale è l'impresa statunitense Walmart. La Walmart detiene il 6,7% del mercato mondiale di vendita. Questo è un dato. In Italia il 70% della vendita di prodotti, cioè di qualsiasi prodotto commercializzabile, avviene attraverso la grande distribuzione. Quindi in qualche modo, quando parliamo di grande distribuzione, adesso parliamo sostanzialmente di un attore, di un soggetto che dal punto di vista per esempio dell'agroalimentare, ma più in generale del consumo, come dire, il principale luogo dove le persone vanno a comprare. Quando parlo del 70-80% sono cifre enormi, dal punto di vista sia dei volumi sia dei fatturati, ma soprattutto anche da un punto di vista della concorrenza, perché quando una decina di grandi marchi di distribuzione controllano il 70-80% delle vendite a livello italiano, praticamente stiamo parlando di un vero e proprio oligopolio. Nel resto d'Europa, la grande distribuzione organizzata, in sigla GDO, ha conosciuto una crescita ancora più rapida che in Italia. In paesi come la Francia, la Germania e l'Olanda si è calcolato che il 60% delle vendite per i soli prodotti freschi come frutta e verdura erano controllati già nel 2004 dalla GDO, una quota inferiore a quella dei paesi scandinavi, dove il controllo saliva all'80%. Se dalla fine degli anni 90 in tutto il vecchio continente non fanno che nascere nuovi supermercati, sul versante delle imprese accade però l'opposto. Le imprese più grandi hanno inglobato o eliminato le imprese piccole, portando ad una rapida e inesorabile contrazione. Nel 2005 si calcolava che in Europa le 5 maggiori catene di supermercati controllavano il 50% di tutto il mercato. Negli anni successivi la concentrazione è ulteriormente aumentata, tanto da destare l'allarme del Parlamento europeo, che nel 2008 ha votato una dichiarazione per spingere la Commissione europea a indagare su eventuali posizioni di abuso. Ma quali sono e cosa fanno a livello globale le multinazionali della grande distribuzione? Ne parliamo con Luca Colombo, della Fondazione per i diritti genetici. Ci sono vari soggetti, diciamo che la gran parte delle catene di grande distribuzione che hanno le maggiori quote di mercato un po' in tutto il mondo sono o statunitensi o europee. E quando parliamo di Europa parliamo soprattutto dell'Europa centrale, quindi Inghilterra, Francia e Germania. Qui si concentrano i più grandi soggetti della grande distribuzione europea. Il grosso interesse è quello di essere l'interfaccia quasi assoluta nei confronti del consumatore, ovvero essere il terminale dei processi di filiera per poi arrivare al consumatore e arrivarci più possibile con un proprio marchio, quindi con una propria identità ben riconoscibile. Ora sempre di più questi soggetti cercano di estendere il proprio raggio d'azione anche alle attività produttive, magari non realizzandole in proprio, ma affidandole dietro contratti con dei capitolati molto precisi, affidandole a dei soggetti produttivi che conferiscono poi il prodotto. E appunto qua dentro, in questa logica, si inserisce anche il cosiddetto contract farming, cioè l'agricoltura a contratto. Dalla famigerata Walmart negli Stati Uniti alla britannica Tesco, senza dimenticare la Copernic, mega impresa che oggi raggruppa 5 colossi della distribuzione europea e tra questi Conad, Coop, Leclerc e Gruppo Rewe. Le catene di supermercati non si accontentano di vendere il prodotto, ma puntano ad acquisire il controllo sull'intera filiera della produzione alimentare. Dalla produzione nei terreni agricoli alla trasformazione, dalla conservazione all'imballaggio, la grande distribuzione impone sul mercato prodotti sempre più standardizzati e omologati. È il caso delle patate, come ci racconta Vincenzo, agricoltore abruzzese. Il mercato mondiale delle patate è comandato dall'Olanda, soprattutto le patate da seme, un mercato comandato dal nord Europa, con la quale, seguendo le indicazioni dell'industria alimentare delle patate, poi fa quello che fa, le patatine, i chips, tutto quello che si trova, dove l'industria cerca minimo sforzo e massima resa, cioè da un chilo di patate cerca di cavarcene 90 kg di fecola o un quintale di patate, o 90 kg di fecola o 90 kg di patatine o 90 kg di frittura, e quindi dà continuamente stimolo alle aziende che producono seme la ricerca di ritrovare quelle patate che caratteristiche hanno, delle caratteristiche organelettriche adatte al suo lavoro. E parecchie patate buone sono rimaste, quasi vanno in via di estinzione. Per esempio, noi la patata più comune, che era la tonda di Berlino, che ha sfamato durante la guerra migliaia di soldati russi, americani, italiani, tedeschi, inglesi, è una patata buonissima, però non ha le caratteristiche che vuole l'industria. È una patata molto farinosa. Piano piano, questa patata è andata in via di estinzione. Sì, si trova, ma in quantità minime di seme. Io un po' ce l'ho, un po' ce l'ha un altro, però in confronto ai milioni di quintali di patate da seme che stanno in Europa, è una patata scomparsa. La grande distribuzione concepisce l'intera produzione alimentare come una grande e composita catena di montaggio, dove ogni singolo meccanismo è finalizzato alle esigenze di ottenere il massimo profitto. Un'agricoltura industriale che viene imposta ai coltivatori principalmente attraverso uno strumento, il contratto di coltivazione, anche conosciuto come contract farming. Il contratto di coltivazione è una cosa semplicissima. Io sono una grande distribuzione, vengo da te e ti dico: allora tu fai 30 ettari di fagiolini, o 10 ettari o 5 ettari di peperoni, di questa dimensione, di questo colore, me li consegni a questa data, a questa data, a questa data, e questo è il prezzo che ti pago. Me li imballi in questo modo, non lo vendi a nessun altro, e io te lo compro. Se uno di questi criteri non è rispettato, non lo compro. Questo è chiaro che l'agricoltore dall'altra parte deve riorganizzare tutta la sua azienda, la sua forza lavoro, i suoi tempi di lavoro, per produrre quel peperone tutto giallo, quella dimensione, da consegnare in quella data, quindi che deve fare? Deve usare pesticidi, deve usare esattamente la varietà che produce quel peperone giallo di quella dimensione, deve usare l'irrigazione, deve consegnare al tempo, deve lavorare secondo le regole che gli vengono stabilite, perché se bisogna consegnare a Hypercoop, GS, Auchan, Carrefour, tanto per fare i nomi dei più importanti, quelle sono le regole. Fuori di quelle non vieni pagato, quindi tu perdi tutto il raccolto. Cioè non è che 50 peperoni non so gialli, forse li butti via, forse la signora se li prende. Nella fornitura con il contratto di coltivazione, se non c'è lo standard, come dicono loro, sei fuori con tutto. E quindi tu perdi tutto raccolto e quindi perdi il lavoro. Una delle regole d'oro delle catene di supermercati è quella di offrire ai consumatori prodotti identici in tutti i punti vendita, in grandi quantità e in ogni momento dell'anno. Che si tratti di un quintale di pomodori o di una partita di carne, la merce deve essere sempre disponibile e per seguire nel modo più rapido possibile le variazioni nella domanda dei consumatori, i supermercati vogliono flessibilità. Inizialmente le cose sembravano andassero anche bene, perché purtroppo la grande distribuzione prima ti dà e poi col tempo si riprende la sua percentuale, ecco. Umberto De Lussu produce pane biologico in provincia di Cagliari e alcuni anni fa ha firmato un accordo con una catena di supermercati, ma le cose non sono andate come sperava. Ma loro, diciamo, nel contratto pretendono il massimo della servitù. Loro pretendono le consegne quasi tutti ad orario, cioè ad orario d'apertura. Pretendono che il prodotto sia sempre abbondante, molto abbondante, a tutte le ore, anche i giorni di festa. Ultimamente ci hanno anche accollato la pulizia degli scaffali, insomma una serie di cose che ci ha messo notevolmente in difficoltà. Ecco. Inizialmente, racconta De Lussu, i produttori firmano un contratto nel quale è prevista una determinata percentuale di guadagno. Ma con il passare del tempo vengono applicate clausole sempre più restrittive, clausole che scaricano sui produttori i costi extra. I supermercati, ad esempio, pagano in ritardo, si rifiutano di considerare l'aumento dei prezzi delle materie prime, oppure costringono i produttori a riprendersi, senza pagarle, le merci che non sono state vendute o che non sono state correttamente etichettate. I produttori, inoltre, si devono far carico dei rischi degli ordini fatti all'ultimo minuto e, naturalmente, dei costi per la certificazione del prodotto. Bisogna comunque stare molto attenti anche nel confezionare il prodotto e nell'etichettarlo, perché per loro ogni piccola scusa è buona, perché il prodotto può passare per invenduto anche per un'errata, diciamo per un errato confezionamento, oppure per una piccolo difetto di etichettatura, perché magari non passa nel lettore, il prodotto non passa in cassa, però comunque viene caricato nel reparto panetteria senza dare il carico al proprietario. Un altro modo per garantirsi un maggiore controllo sui produttori è quello di siglare accordi separati con ognuno di essi, promettendo maggiore visibilità sugli scaffali a chi accetta condizioni più restrittive. Allora, intanto loro sono molto bravi, attraverso trattative private, a contattare ognuno di noi in diversi momenti, creando magari dei favoritismi in punti strategici del mercato, dei punti vendita, mettendo in evidenza magari un produttore più che un altro, capito? E allora si scatena questa concorrenza spietata, perché è chiaro che chi viene privilegiato è perché ha dato di più, ha dato maggiormente. Allora si scatena una rincorsa all'aumento della percentuale da parte di alcuni. Spesso questa trattativa avviene in maniera segreta, all'insaputa di molti di noi, cioè chi sta a questo gioco comunque genera un giro vorticoso, perché poi per loro diventa un diritto acquisito chiedere magari le stesse percentuali alla fine anche agli altri, anche a chi non sta al gioco, capito? Grazie alla sua posizione dominante sul mercato, la grande distribuzione è in grado di esercitare un autentico ricatto sui produttori. Ma anche i consumatori finiscono per essere danneggiati dalla concentrazione del mercato nelle mani di pochi soggetti. In Europa ci sono 160 milioni di consumatori, ma per molti di loro l'unico modo per accedere al cibo è ricorrere alle società della grande distribuzione, che in totale sono 110. Il risultato è che in qualsiasi città vai, i prodotti esposti sugli scaffali, a lungo andare, come ci spiega Luca Colombo, si assomigliano un po' a tutti. c'è la tendenza a sostanzialmente ad appiattire i regimi dietetici, quindi a appiattire anche le culture alimentari nei paesi, cercando di uniformarle, di farle convergere verso un punto comune, che è quello di vendita di prodotti che sono a basso valore aggiunto nutrizionale ma alto valore aggiunto economico, quindi prodotti particolarmente trasformati. Di solito sono caratterizzati dalla presenza di pochi ingredienti tutto sommato, perché sono alcuni oli vegetali, in particolare olio di palma o olio lecitine, oli di soia, zuccheri e anche con molto sale, perché poi naturalmente questi alimenti poi comportano anche il fatto di doverci bere su molto, quindi tanto zucchero e tanto sale fanno aumentare il bisogno di bibite. Di solito sono, come dire, anche questo accompagna l'espansione delle bibite gassate, per esempio, che anche nei paesi in via di sviluppo è un fenomeno molto importante. Come già aveva intuito Michael Cullen nel 1930, uno dei punti di forza dei supermercati è quello di lasciare il cliente libero di muoversi tra gli scaffali tra mille e più prodotti. Una libertà in cui, però, nulla è lasciato al caso. Nel corso degli anni, la grande distribuzione ha perfezionato le tecniche per indurre i clienti all'acquisto, sviluppando un'autentica disciplina degli scaffali, con un suo proprio linguaggio che va dalla A alla Z. Acquisto d'impulso. Acquisto non programmato da parte del consumatore, effettuato a seguito di uno stimolo improvviso, senza tener conto di fattori di convenienza o utilità. Area test. Area su cui si effettuano prove di marketing per sondare l'efficacia o la vendibilità di un prodotto. Assortimento. L'insieme dei prodotti offerti da un'impresa commerciale alla clientela. Normalmente è diviso in linee che raggruppano i prodotti in maniera omogenea. Back to back. Espositore da pavimento utilizzato nei supermercati. Mercati con esposizione della merce da pavimento su due lati, utilizzato letteralmente dorso a dorso. Brand manager, responsabile della gestione di una linea di prodotti commercializzati con lo stesso marchio. Caddy promotion, couponing. Down market, è un display. Mercato indicato per il segmento meno abbiente della popolazione. Effetto alone, influenza positiva e trainante per le vendite, è esercitata dall'immagine di un prodotto, di una marca, di un paese su altri prodotti della stessa marca o paese. La convenienza dei prodotti rimane la chiave per attirare i clienti. Per questo molte catene di supermercati usano la cosiddetta tecnica dei beni civetta, generi alimentari di prima necessità con prezzi molto bassi. Una volta acquistata la fiducia dell'acquirente, tutto sta ad indurlo a spingersi ancora un po' più in là con il carrello. Pasta di semola 500 grammi a soli 75 centesimi. Acqua minerale naturale 1,5 litri a soli 30 centesimi. A soli 70 centesimi. Ma i prezzi sono davvero così convenienti? Lo abbiamo chiesto a Javier Montagut di Xarsa Consum Solidari, associazione che insieme a Mais fa parte di Creating Coherence, un consorzio di ONG europee che si sono messe in rete con l'obiettivo di informare e aprire spazi di riflessione sul commercio e le politiche di sviluppo, promosse in particolare all'interno dell'Unione Europea. È discutibile come si contano i prezzi, perché di fatto noi... In realtà paghiamo vari multipli del prezzo. È vero che quando compri un chilo di pomodori che proviene da non so dove paghi meno di quanto lo pagheresti se fosse stato prodotto con metodi naturali, in condizioni di lavoro giuste e di prossimità. Però in realtà stai pagando anche delle sovvenzioni pubbliche che permettono il mantenersi di questo sistema e paghi un costo in termini di salute per il cambiamento climatico e paghi per un prodotto che ti alimenta molto peggio e molto meno. Quindi quell'economicità è un'idea piuttosto fittizia. Quello che fa la grande distribuzione è vendere illusioni, l'illusione che sia più economica, più comoda, che offra maggior diversità. Purtroppo hanno un sistema di propaganda molto sviluppato, per cui molti finiscono per crederci, ma se consideriamo tutti questi costi nascosti, ci rendiamo conto che non è così economica e se facciamo attenzione alla varietà dell'offerta sugli scaffali, la realtà è che non ce n'è poi tanta. In questo senso c'è più una vendita di immagine, cosa in cui sono specialisti, che non una vendita di cose concrete. In questo senso hai più una vendita di immagine, che per questo sono specialisti, che una vendita di realtà. Thank you. spot, ricerche di mercato, addetti alla promozione. Quando compriamo un prodotto al supermercato, buona parte del prezzo finale serve a coprire i costi di marketing. In Italia la Coldiretti ha ad esempio calcolato che per ogni euro di spesa in generi alimentari 17 centesimi sono destinati ai coltivatori, 23 vanno all'industria di trasformazione e 60 restano alla grande distribuzione. In altre parole, il prezzo finale pagato dal consumatore può essere anche di 400-500 volte maggiore rispetto a quello pagato dalla grande distribuzione al produttore. Per tenere in piedi il complesso meccanismo che hanno creato, le catene dei supermercati sono però alla continua ricerca di ulteriori sconti. Generi alimentari più a buon mercato, coltivatori che si fanno pagare meno. E per fare questo, spiega ancora Montaguti di Xarxa, ci si rivolge ai paesi in via di sviluppo. Stanno appoggiando tutto un processo di slocalizzazione. Se si fa caso all'etichetta dei prodotti, una percentuale elevatissima dei prodotti agricoli viene dai paesi del sud del mondo, dove in generale ci sono terreni migliori da sfruttare e prosciugare e dove ci sono lavoratori con meno diritti. La grande distribuzione sta giocando un ruolo enorme nella costruzione di questo sistema, per cui gli alimenti viaggiano per migliaia di chilometri e dietro a questi alimenti ci sono stipendi da fame. Se questi paesi utilizzano le loro terre migliori per prodotti destinati all'esportazione e non per alimentare la propria popolazione, inoltre a dei prezzi sempre più bassi, a loro non resta che poco denaro e la maggior parte del profitto va alle multinazionali, che ovviamente lasciano ben poco al tessuto produttivo della zona d'origine. Che evidentemente non lo lasciano nel tessuto produttivo della zona. Spesso i generi alimentari esposti hanno fatto migliaia di chilometri prima di arrivare sugli scaffali. Noi però torniamo al difficile rapporto tra produttori e GDO a livello nazionale, quello che il panettiere De Lusso chiama un vortice. Quando uno poi si trova all'interno di questo vortice, sembra quasi con paura che non ne possa fare a meno di questa loro opportunità, no? Loro ti danno l'illusione di essere in un mondo aperto a tutti, dove la vendita avviene in maniera più facile, ma non è così. Io in diverse occasioni mi sono opposto a questo loro atteggiamento, però la loro risposta è quella della minaccia, cioè dell'uscita dal rapporto di lavoro. De Lusso ci racconta che ha deciso di uscire dal giro della grande distribuzione e di tornare alla vendita diretta. Ma per molti altri produttori la scelta è difficile, anche perché hanno fatto degli investimenti per adattarsi agli standard dei supermercati. Una volta fuori si rischia inoltre di rimanere isolati, visto che l'intera struttura, come racconta Antonio Onorati dell'associazione Crocevia, è oramai congegnata per favorire i grandi numeri. Per il contadino o l'agricoltore tutto è preparato perché venda in Norvegia o alla grande distribuzione, niente è preparato perché venda al suo vicino. Non esistono più i piccoli mattatoi, per cui se tu devi fare la carne biologica spesso c'hai da fare 50, 100, 200 km per trovare un mattatoio biologico. La grande distribuzione ha un sistema che è pensato solo per lei. Noi facciamo sempre questo esempio, quello di Roma. Roma ha la più alta concentrazione di ipermercati che ci sia in Italia, 28 ipermercati in una sola città. E quando Auchan ha aperto il suo ipermercato, gli hanno fatto una nuova, raddoppiato la corsia dell'autostrada e fatto due svincoli giganteschi per permettere a tutti di andare a fare la spesa all'ipermercato. Questo l'abbiamo pagato tutti. L'Italia è considerato un caso anomalo rispetto all'Europa. Qui la fetta di mercato che la grande distribuzione è riuscita a far propria oscilla solo tra il 70 e l'80%. Da noi a complicare le cose alla moderna forma distributiva è stato non solo il tessuto storico e sociale, ma anche l'assetto urbanistico delle città, che grazie agli spazi più ristretti hanno in qualche modo difeso i piccoli esercizi a conduzione familiare. Una resistenza che è stata però gradualmente erosa a favore di un numero, anche qui limitato, di grandi aziende. Attualmente il 76,6% del mercato nazionale è concentrato nelle mani di 5 grandi centrali d'acquisto. Centrale Italiana, cui fanno capo Coop, Despar Servizi, Sigma, il gigante, Est Italia, che comprende Selex, Agorà, Acqua e Sapone e San, SICON, cui fanno riferimento Conad, Interdis, Rewe, CSA, di cui fanno parte Carrefour, GDM, CDS, la nuova nave, Centrale Auchan, che tiene dentro Gruppo Auchan e CRAI. A spalancare le porte ai supermercati sono state anche una serie di norme, e in particolare il decreto Bersani, che nel 2006 ha facilitato l'apertura di nuovi esercizi e reso più flessibili gli orari d'apertura. Riunite in gruppi, le catene della grande distribuzione sono in grado di esercitare un enorme potere, tanto che a novembre del 2010 l'Authority per la concorrenza ha deciso di aprire un'inchiesta su eventuali posizioni di abuso. Proprio per smarcarsi dal dominio delle grandi aziende, produttori e consumatori si continuano a mettere d'accordo con l'obiettivo di creare sistemi alternativi. Per saperne di più, siamo stati a Terra Terra, mercatino itinerante di vendita diretta che si svolge 5 volte al mese in diversi quartieri di Roma. Terra Terra è un connettivo che significa cittadini e produttori insieme cercano poi di fare un discorso sull'alimentazione, sul discorso dei prezzi abbastanza abbordabili per tutti e poi un discorso della trasparenza sui nostri prodotti. Io sono un produttore di arance, mandarini, cedri, pompelmi, poi facciamo il vino e facciamo anche il pane. Allora, noi siamo produttori di nocciole, con le nocciole ci facciamo un po' tutto quanto, il nostro pezzo forte che ha avuto successione è stata la naturella, che sarebbe come la Nutella ma fatta senza addensanti, senza idrogenati, senza tutta la robaccia che ci mette la ditta, che possiamo dire, insomma, via. Io come artigiano sono qui perché c'è gente che capisce, per fortuna, la capacità, la particolare volontà di creare ancora oggi nel 2009-2010 cose a mano. In un mondo industrializzato, insomma, ormai, dove le cose costano poco e valgono poco. Perché Terra Terra? Terra Terra perché è l'unico modo per far sopravvivere le piccole aziende. Nell'agricoltura nostra è diventata un po'... non ci sta più nessuno, la piccola agricoltura è finita. Adesso stanno le grandi aziende, hanno venduto tutti i terreni a olandesi. Siamo tornati indietro, non dico dei 50 anni, ma a quei livelli là. E purtroppo i piccoli produttori sono presi un po' al cappio della grossa distribuzione per i prezzi e per tutto, insomma. E quello, pure quello che sono tutti i permessi, la burocrazia, tutto il discorso igienico ti mette in condizioni che il piccolo produttore non può sostenere tutte queste spese, diciamo. Scegliamo di vendere a Terra Terra perché Terra Terra ci consente di creare quel rapporto di fiducia con il consumatore che viene ad acquistare i prodotti qui. Più che il certificato biologico, più che diciamo carte scritte, secondo noi quello che è realmente importante è avere un rapporto diretto con chi utilizza i nostri prodotti. Frutta, verdura, pane, vino, salumi, formaggi, conserve, ma anche artigianato, il mercatino Terra Terra è solo una delle tante esperienze alternative che da anni si moltiplicano in Italia. L'autocertificazione costituisce, insieme alla trasparenza dei prezzi, uno dei principi cardine su cui si fonda l'esperienza di Terra Terra. Al di là di ciò che prescrivono le leggi, spiega il connettivo Terra Terra, ciascuno ha il diritto e il dovere di indicare l'origine delle materie prime, la loro tipologia, i metodi di trasformazione e conservazione. Quanto alla trasparenza, si applica il cosiddetto prezzo sorgente, prezzo praticato dal produttore prima di ogni altro ricarico della catena commerciale. Per supplire alle difficoltà strutturali di una vendita diretta e biologica, c'è quindi la pratica messa in atto dai singoli cittadini, al di là della divisione tra produttori e consumatori. Negli ultimi anni in Italia sono aumentati notevolmente i gruppi di acquisto solidale, i mercati contadini, ma anche gli spacci di vendita diretta, ognuno con una sua pratica e storia diversa. Qui troviamo dai prodotti quelli che possiamo trovare in vendita in maniera sfusa, quindi dalla pasta al riso, a alcuni tipi di spezie, a legumi, a farine. Paolo Boni ha ad esempio aperto lo scorso aprile un punto vendita di generi alimentari nel quartiere Mirabello a Reggio Emilia. e per lui l'esigenza primaria era quella di ridurre il peso delle confezioni sul ciclo dei rifiuti. L'idea è stata mossa dalla domanda del perché una volta che uno torna a fare la spesa al supermercato si ritrova a dover buttare in raccolta differenziata 2, 3, 4 bustine di plastica, vetro, imballaggi vari. Mi sono domandato il perché c'era tutto questo spreco e da lì poi è nata una ricerca del come poter fare invece una variante a questo modo di vendita. Ed è nata l'idea di questa, la ricerca dei contenitori, la ricerca della tipologia di vendita. Da lì poi invece abbiamo abbinato anche un discorso di filiera corta e sicuramente anche altri prodotti, però sempre parlando di ecologia, quindi biodegradabili e tutto quello che ne consegue, sempre per un'ottica di rifiuti zero. Ma quanto è estesa la pratica del consumo alternativo? A fare una stima della situazione italiana è il professor Andrea Calori, docente di sviluppo e territorio al Politecnico di Milano. Non ci sono delle statistiche propriamente dette, ci sono sono tutte cose che si possono solo raccontare, nel senso che, per dire, sui gruppi d'acquisto che hanno un tasso di crescita veramente esponenziale, cioè io potrei testimoniare quello che succede nell'area milanese, dove nell'ultimo anno credo che si sia andati intorno al raddoppio dei gruppi d'acquisto solidali, tanto per dire, no? Nel giro di un anno, però sono tutte cose su cui veramente non ci sono statistiche. Chi si occupa tra l'altro di statistiche invece del mercato agricolo, quindi le forme aziendali, le quantità, così, in realtà non raccoglie i dati in modo da testimoniare questo genere di cose, no? Allora, in modo sistematico, nel senso che, come dire, anche tutto il sistema statistico orientato in modo globalizzato. Ovviamente c'è bisogno di, come dire, di riavvicinare le persone a un consumo non soltanto più responsabile ma anche più ragionevole. Quindi le alternative come mercati contadini, spacci piuttosto che gruppi di acquisto solidale, quelle sono forme, come dire, paradigmatiche di alternativa, vale a dire l'idea di cambiare il rapporto tra produttore e consumatore, renderlo un rapporto diretto, renderlo un rapporto giusto e renderlo soprattutto un rapporto trasparente. Questi aspetti sono centrali. Ovviamente il supermercato non scomparirà, quindi va bene promuovere buone pratiche, ma c'è bisogno anche di politiche pubbliche che promuovano, ad esempio, modelli di produzione alternativi, che promuovano buone pratiche, concorrenza, trasparenza ed equità nelle filiere rispetto anche a questi grandi attori. Quindi un doppio binario. Leggi e politiche, come diceva Roberto Sensi di Mais, a sostegno dei piccoli produttori o che permettano di esercitare un controllo effettivo sugli oligopoli della grande distribuzione. In attesa delle norme, ai consumatori non resta che esercitare il proprio potere d'acquisto con una spesa più consapevole. Il pianeta in scatola è uno speciale radiofonico realizzato con il sostegno e la partecipazione dell'organizzazione non governativa MAIS nell'ambito del progetto Creating Coherence, promosso insieme alle organizzazioni Fair Watch di Genova, Xarxa de Consum Solidari di Barcellona, Bose Ems di Amsterdam, Zazemiata di Sofia e Protect the Future di Budapest.